in primo piano. In questo lunedì 14 marzo, tra l'altro, di evasione fiscale parla anche il Sole 24 Ore in apertura. Il fisco spinge sulle procure, false fatture, dichiarazioni infedeli, le contestazioni più frequenti. Ci si concentra sui reati tributari che sono aumentati in due anni dell'80%. Questo per quel che riguarda il Sole, mentre trovate il Giappone in assoluto ancora per l'ennesimo giorno, giustamente nelle prime pagine dei giornali, emergenza in quattro centrali, così apre il Corriere della Sera. Giappone, la grande paura nucleare, questo per Repubblica. Per La Stampa, Giappone, 10.000 morti, paura per le radiazioni. Il Messaggero, un'ecatombe, Giappone in ginocchio. Anche il Secolo XIX, il fantasma del Giappone. Mentre l'Unità, onda emotiva, e l'onda, insomma, sullo sfondo c'è la foto di una centrale, no, in questo caso di una raffineria di petrolio in fiamme nel nord del Giappone. Anche il Quotidiano Nazionale, l'inganno nucleare. Solo il Giornale apre su cose italiane, il cavaliere in campo, coraggioso ma un po' matto, così si definisce Berlusconi. Vedremo il Giappone più avanti. Intanto io voglio partire da che cosa? Beh, da una segnalazione di Repubblica, pagina 27. Via da scuola chi non paga la mensa, ritorna un gran classico. Roma, istituto ferma le iscrizioni, i morosi sono al 90%, ma le famiglie protestano, è illegale. Chi non paga la mensa, scrive Anna Maria Liguori, è fuori dalla scuola. Così ha deciso una delibera approvata dal consiglio dell'istituto di via Giuseppe Messina a Roma, nel cuore di Cinecittà, frequentato da 1.000 alunni, dalla materna alle medie. Per i genitori morosi arriverà un nulla osta in uscita che li costringe per il prossimo anno a iscrivere i propri figli altrove. Una norma scelta dalla preside, perché il 90% non paga la tassa mensile, che oscilla tra i 40 e gli 82 euro per alunno, e dunque il preside ha deciso, visto che la cooperativa che gestisce i pasti ha chiesto di essere saldata giustamente, il dirigente ha detto: chi non paga l'anno prossimo si deve iscrivere altrove. I rappresentanti d'istituto dicono: è sbagliato, non c'è giustificazione che tenga, il preside non può impedire l'iscrizione all'anno scolastico successivo, è una scuola pubblica, è tutto incostituzionale. Sta di fatto che il preside ha scelto questa via. Roma, istituto ferma le iscrizioni, i morosi sono al 90%, via da scuola chi non paga la mensa. Una segnalazione breve invece dal Messaggero, perché è anche un po' il tema della nostra intervista, pagina 8, vigilie, Ferrara ascolta Liz, mentre Sgarbi, Laminetti. Come mi preparo al ritorno, sto sentendo una sonata di Liz. Così Giuliano Ferrara, che oggi riparte con il Radio Londra alle 20.30 su Rai 1, tema della puntata, dice: non so assolutamente che cosa dirò domani, cioè oggi, il direttore del Foglio. Mentre altra vigilia per Vittorio Sgarbi, il cui programma sulla Rai pare ancora slittato al 20 aprile. Sgarbi dice: secondo qualcuno non si farà mai questo programma. Come lo vuole intitolare? Forse Il bene e il male, forse Capra e cavoli, oppure Fuoco sgarbiano. Dovrebbero essere 5 puntate. Lui assicura che potrà intervistare Putin, Clinton, Ahmadinejad, il Dalai Lama, Berlusconi. C'era anche Gheddafi, ma è stato cancellato. Intanto Claudia Gerini e Veronica Pivetti hanno rifiutato l'offerta di condurre con lui il programma. Sgarbi ha rifiutato invece la proposta Rai di affiancargli Lamberto Sposini. Ora vuole a tutti i costi al suo fianco Nicole Minetti. Costo del programma, fa sapere il Messaggero, 1 milione di euro a puntata. Partirà? Non partirà? Chi lo sa? Perché dico ci occuperemo nell'intervista? Perché alle 8.20 avremo il rappresentante, uno dei membri del consiglio di amministrazione della RAI, Nino Rizzo Nervo, a parlare anche di questo. Oggi parte Ferrara, partirà forse Sgarbi, insomma, l'informazione. Ne parleremo alle 8.20 nell'intervista. I giornali ancora si concentrano, ora che tutti gli inviati sono giunti in Giappone, sui racconti della devastazione. Ancora trovate le prime 10-12 pagine di tutti i quotidiani dedicate a quello che sta succedendo in quel paese dopo il devastante terremoto. Ci sono delle foto davvero impressionanti di città scomparse, letteralmente spazzate via, villaggi dove non c'è più nulla. Io, tra i tanti reportage, mi ha colpito molto quello di Giampaolo Visetti su Repubblica, da Minami Sanriku. La città scomparsa dovrebbe essere qui sotto, nessuno si rassegna a crederci, ma è così, i piedi affondano in un pantano nero impastato di sabbia, petrolio, acqua salata, travi in cemento, pesci coperti da insetti. Così racconta Giampaolo Visetti. Potrebbe essere uno stagno che si sta prosciugando, percorso da odori adesivi, usato come discarica, invece si calpesta Minami San Riku, non si vorrebbe, temendo di fare male a qualcuno. Pochi soccorritori sono arrivati qui, la prima volta se ne sono andati, convinti che il porto peschereccio, abitato fino a venerdì da 17.000 persone, si trovasse altrove. Sono tornati oggi, spinti dai sopravvissuti del posto, dal GPS, e adesso non hanno dubbi. Questo deserto, coperto ora dai gabbiani, da cui affiora una gamba piegata, si apre dall'oceano verso l'interno per 9 chilometri. E così inizia il reportage nella città che non c'è più. Acqua nera, sabbia e morte in 10.000 inghiottiti dall'onda. Perché, come racconta pagina 2 La Stampa, il premier giapponese Naoto Kan, che ha detto è la più grave emergenza dalla tempi della Seconda Guerra Mondiale, insomma ha fatto un po' il bilancio di quelle che sono le vittime: 12.000 persone tratte in salvo, 50.000 uomini delle forze di autodifesa, 3.000 vittime, ma in realtà 3.000 vittime accertate, ma saranno molte di più. Si parla appunto di almeno 10.000 morti, di un altissimo numero di dispersi, e quindi ci sono città letteralmente scomparse, villaggi scomparsi, e dunque si teme che il numero delle vittime sia davvero davvero molto molto alto. Su cosa però si concentrano un po' tutti i giornali, da una parte qualcuno dice paradossalmente, ma certo, l'incubo, il terrore che evoca il nucleare porta a questo, beh, si concentrano appunto sulla questione dei timori legati alle centrali nucleari giapponesi. Sono quattro che fanno tenere ovviamente alto, molto alto, il livello di allerta. Come ricorda La Stampa a pagina 2, la centrale di Fukushima è la prima, stato di emergenza, poi la centrale di Onagawa, dove ci sono danni al sistema di raffreddamento, la centrale di Tokai, dove è bloccato il sistema di raffreddamento, e la centrale di Ichihara, dove c'è, più che una centrale, in questo caso è una raffineria, quindi non c'entra il nucleare, la centrale, la raffineria di Ichihara, dove c'è un incendio in corso. Insomma, il timore è per quel che riguarda il nucleare, tanto che l'unità è molto chiara: allarme in tre centrali, sarà una Chernobyl d'Oriente. E si sprecano anche le interviste che vogliono partire dal Giappone per raccontare invece quello che è la scelta nucleare in Italia. Per esempio a pagina 6 del Corriere della Sera, il piano italiano del nucleare viene affrontato in due interviste. La prima è quella a Paola Girdini, 55 anni, prima donna a presiedere la facoltà di ingegneria a Genova, che dice: le nuove centrali sono 4 volte più sicure, basta reazioni emotive, si sono verificate condizioni al di là di ogni previsione, la concomitanza di un terremoto, un maremoto, gruppi elettrogeni fuori uso in una sola centrale su 55, perché le altre sono andate tutte in blocco come dovevano, e si tratta di impianti di seconda generazione. Così dice Paola Girdini. È stato un evento davvero eccezionale, le reazioni emotive sono comprensibili, diciamolo pure. I cittadini purtroppo associano le tecnologie nucleari alle bombe e ai tumori, ma non è così. E anche coloro che in questo momento cavalcano l'onda antinucleare non rendono un buon servizio a nessuno. Insomma, dice questa professoressa, se pensiamo che eventi di quel genere siano la norma, allora non dovremmo neppure costruire dighe o altre infrastrutture. Non esiste nulla a rischio zero. E ancora c'è il problema dell'acqua potabile, delle epidemie, delle vittime, della rete fognaria, di un'economia in ginocchio. L'attenzione invece va solo sulle centrali nucleari. Mentre nella seconda intervista risponde un altro scienziato, vale a dire Vincenzo Balzani, che insegna chimica all'Università di Bologna, uno tra gli scienziati più citati al mondo, lo presenta così il Corriere della Sera, e che dice insomma ci sono dei dubbi, i rischi sono troppo alti, le misure inadeguate contro gli incidenti. C'è anche il problema delle scorie, diciamololo chiaramente, dice il professore, il regime di libero mercato, peraltro il nucleare, non è concorrenziale, o ci metti soldi lo Stato o non si può fare. In Italia si vorrebbero introdurre garanzie su prezzi e consumi che sono un'alterazione del mercato, non ci saranno bollette più leggere. Dunque dice no al nucleare anche per i problemi delle scorie, per i problemi dei rifiuti che vengono collocati in contenitori su piazzali delle centrali in attesa che il problema venga affrontato in modi nuovi. Insomma, il tema del nucleare è il tema che si trova più sviluppato sui giornali. Secondo il quotidiano nazionale c'è anche le bugie atomiche di Tokyo, cioè è tutto affidato all'agenzia, vale a dire la TEPCO, la Tokyo Electric Power Company, che già in passato, la società che gestisce gli impianti nucleari, e che già in passato, racconta Alessandro Farrugia, ha avuto negli anni scorsi dei problemi per avere mascherato dati sulla sicurezza, e il governo non le ha tolto la gestione, tanto che viene titolato così dal quotidiano nazionale: le bugie atomiche di Tokyo, più volte falsificati i dati sulla sicurezza delle centrali, ma nulla è cambiato. Questo per quel che riguarda il Giappone. L'altra, se volete ancora cimentarvi sulla politica internazionale, troverete ancora molto di Libia anche come secondo tema dopo quello del Giappone, di esteri, perché ora con un improvviso cambio di rotta pare che l'avanzata di Gheddafi, delle truppe di Gheddafi, sia ormai inarrestabile. Assedio a Bengasi, titola anche il Corriere, abbiamo sentito anche l'inviato del Sole Roberto Bongiorni nel GR, cioè pare che questi ribelli siano un po' spariti, tanto che Enzo Bettiza sulla Stampa, analista di politica internazionale, nel suo commento dal titolo "Gheddafi spiazza l'Occidente", dice: ora che si farà? L'Europa e il mondo, la comunità internazionale è divisa. C'è un fronte interventista costituito da Francia e Gran Bretagna, un secondo più neutralista formato dall'Italia, dalla Germania, il terzo attendista rappresentato dagli Stati Uniti. Posizioni diversificate che si elidono a vicenda, il risultato finale che abbiamo sotto gli occhi è la mancanza di un'azione salvifica nei confronti dei rivoltosi e bellica contro i blindati e i cacciabombardieri di Tripoli. E dunque un Muammar Gheddafi condannato come criminale in Occidente, ma inaspettatamente resuscitato grazie ai veti di Pechino e di Mosca, alla sommità di tonnellate d'oro nero che porrà grossi e tremendi quesiti all'Italia e all'Europa nel suo insieme. Il rischio è quello di avere alle porte uno stato pirata governato da un imprenditore del terrorismo. Insomma, che sta succedendo in Libia? Pare che Gheddafi, almeno a leggere i giornali, stia riconquistando terreno. Pare che rimanga ormai solo Bengasi come città fuori controllo, non si può neanche dire forse in mano a qualcun altro, ma fuori controllo dalle truppe governative. E la domanda sarà: domani, dopodomani, che succederà se Gheddafi rimane lì al potere e tutti abbiamo detto che non è più un personaggio credibile, un interlocutore credibile? Voglio arrivare alle cose nostre, alle cose italiane, alla politica italiana, che è tutta concentrata ancora sulle polemiche dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri della riforma costituzionale della giustizia. Una riforma che Berlusconi ha definito così: fatta da noi. E io mi definisco eroico, coraggioso, coraggioso, temerario, forse anche un po' eroico e matto. Così si è definito Berlusconi. Per cui, essendo matto, ho detto: variamo subito questa importante riforma, e lo abbiamo fatto nel Consiglio dei Ministri. D'altronde sono un po' matto perché sono sotto 5 processi, di cui uno civile terribile, Lodo Mondadori, mi si chiede una montagna di soldi, e tutte le persone sagge mi hanno detto: non presentare adesso la riforma della giustizia perché altrimenti chissà che ti fanno. E invece ho ritenuto che avendo la maggioranza finalmente in grado di andare avanti, sia davvero necessario varare la riforma della giustizia. Dunque Berlusconi, che si definisce coraggioso, temerario, forse anche un po' eroico e matto, e per questo la riforma della giustizia che ieri il ministro Alfano è andato a spiegare in TV da Luce Annunziata. Forse è andato anche, mi pare di aver capito dai giornali, alla 7 ieri sera, da Antonello Piroso. Alfano, che ha fatto una mossa sul processo breve, racconta Repubblica: ritirerò la norma pro Berlusconi, chiederà il ritiro della tanto contestata norma transitoria che ha nel cavaliere il primo beneficiario. Nonostante ciò, dall'opposizione ci sono le proteste. Anna Finocchiaro, in un'intervista a Repubblica, dice: è propaganda, il PD non ci cadrà, è una riforma della giustizia semplicemente inaccettabile. Così Rosi Bindi in un'intervista alla Stampa, mentre il vero giallo, le vere polemiche però sono legate alla presenza di un procuratore, il procuratore antimafia di Palermo, Antonio Ingroia, che sabato scorso è andato alla manifestazione in difesa della Costituzione e ha attaccato duramente la riforma. Ieri il giornale titolava così: questo magistrato si deve dimettere, con la foto di Ingroia. Ingroia che oggi si difende, una serie di interviste le fa a Repubblica e alla Stampa. Ho diritto di criticare la riforma, ci fu la stessa intolleranza su Borsellino, intervistato da Repubblica. La magistratura non vuole sostituirsi al potere legislativo, ma nel rispetto del potere legislativo un magistrato può esprimere il suo punto di vista tecnico su scelte che rischiano di essere uno strappo rispetto ai principi fondanti dell'assetto costituzionale. E poi ancora Ingroia dice: è lo stesso quando Borsellino fece una denuncia pubblica sul calo di tensione nella lotta alla mafia. Fu attaccato, un attacco che non fu sui contenuti che Borsellino esprimeva, ma direttamente alla sua persona. Oggi vedo la stessa intolleranza, cioè nei miei confronti. E così anche sulla Stampa, Ingroia in piazza, il PDL si dimetta. Dice: alla manifestazione non c'erano i partiti, si tratta dell'ennesimo attacco, un'altra manifestazione di intolleranza nei confronti del dissenso. Così dice Ingroia. Mi sento intimidito, ci vuole altro, ma se le critiche sfociano nell'offesa e nella diffamazione promuoverò azioni legali. Insomma, Antonio Ingroia, procuratore aggiunto a Palermo, protagonista anche dei processi, per esempio la condanna a Marcello Dell'Utria, il caso Bruno Contrada, gli ricorda la Stampa alcuni dei più famosi, collaboratore di Falcone, Borsellino. È andato in piazza, il PDL si dimette, c'è una polemica sulla sua presenza in piazza. Che cosa c'è di altro? Guardate, è un po' un lunedì di stanca della politica, bisogna andare a vedere alcuni articoli. Per esempio c'è una grana, pare, all'interno del PDL, il fatto che Claudio Scajola non si rassegna assolutamente ad essere un po' fuori dai giochi dopo che si è dimesso da ministro per la famosa casa sua insaputa. Scajola attacca PDL, fusione mai riuscita. Così a pagina 21 del Corriere della Sera, anche se racconta il Corriere l'immagine dipinta dal suo partito di lui che si presenta da Berlusconi ad Arcore con la richiesta di un ruolo o una poltrona per mere ambizioni personali, lo ha fatto infuriare. Però ieri Claudio Scajola ha ancora voluto mettere nero su bianco, con un post sul sito della sua fondazione, la sua ferma intenzione di dare battaglia, perché ha parlato del PDL, geniale intuizione politica di Berlusconi, che finora non è diventato uno strumento organizzativo funzionante. Doveva essere il partito della gente, della nostra gente, ma troppo spesso non lo è. Insomma, le lamentele di Scajola, come ci sono le lamentele ora, affiorano all'interno dei cosiddetti responsabili. Uno che per la verità già in settimana scorsa si è lamentato parlando di kindergarten, definendo così responsabile un asilo nido, e ora ci ritorna con un'intervista all'Unità, è Antonio Razzi, che è uscito dall'Italia dei Valori poco prima della fiducia del 14 dicembre, e dice: abbiamo salvato la legislatura, e a che prezzo? Minacce, insulti, scritte sui muri di casa a Pescara. Che brutto momento, mai visto così tanto odio. Ma sa che adesso mi tocca andare in giro con la scorta, dice Antonio Razzi, intervistato da Claudia Fusani. E adesso lei dice che è un asilo nido. Sì, questa politica è un asilo per bambini. Io rifarei tutto, se è questo che vuol sapere, per l'Italia. E però, guardi, io non ho chiesto nulla, ma mi avevano offerto una posizione da segretario della Camera. Poi Saverio Romano mi chiamò dicendo: guarda, c'è un problema, c'è Michele Pisacane. E così hanno eletto lui. Non è stato un comportamento da persone educate. Così Antonio Razzi, che si aspetta l'educazione evidentemente in politica, e che ora dice: ma non lo so, forse esco, forse me ne vado dai responsabili, ci devo ancora pensare, oppure resto qui, faccio il semplice deputato, pigio un bottone, sì, no, rosso, verde. Ma scusi, lei resta nella maggioranza, vedrò, dipende, il voto è mio. Così conclude Antonio Razzi, avete capito, il voto è mio. Ora deciderà che fare. Che cosa c'è altro di polemica politica? Ma poco altro. Voglio andare al Sole 24 Ore, perché oggi si concentra sull'evasione fiscale, sui reati tributari. Per la verità di evasione fiscale parliamo anche noi nel nostro sondaggio alle 8:30. Ebbene, il fisco spinge sulle procure. Così apre il Sole 24 Ore edizione del lunedì, perché i reati tributari segnalati alle procure italiane sono cresciuti dell'80% tra il 2008 e il 2010. Sono quasi il doppio in appena 2 anni. La gran parte dei fascicoli riguarda l'utilizzo di false fatture e dichiarazioni fraudolente. È un monitoraggio che ha fatto il Sole 24 Ore su 55 procure della Repubblica presso i tribunali, un terzo del totale. I dati fanno riferimento al numero di notizie di reato pervenute nel triennio 2008-2010 relative a che cosa? Dichiarazione fraudolente con uso di fatture false, altre ipotesi di dichiarazione fraudolente, infedele dichiarazione, omessa presentazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, insomma, i reati tributari più comuni che sono in continua crescita. In testa con oltre 1700 pratiche aperte è Milano che guida il boom dei reati tributari, ma trovate su tutte le procure da Alba, Aosta, Ascoli Piceno fino a Verona, Vicenza, tutta la classifica di chi ha più reati tributari in Italia e tra l'altro delle procure che gestiscono più reati, più ipotesi di reati tributari in Italia. È il tema che tratteremo, o meglio l'evasione fiscale lo tratteremo alle 8.30. Ricordo l'Agenzia delle Entrate col suo direttore Befera che dice 10 anni per sconfiggere l'evasione fiscale. Ci credete? Votate su radio24.it e ne parleremo nel sondaggio. Come devo concludere? Devo concludere come al solito il lunedì con la Gazzetta. Comincio a scalpitare dal nervosismo, come sentite. Il titolo è Ibra, ma dai! Che ha combinato Ibrahimovic, che poco fa rivedeva ancora in TV, oltre a giocare da una decina di partite come Peter Bescapè, che oltre a essere alpino è anche un grandissimo giocatore di football americano. E se lo mettiamo in campo con Ibrahimovic degli ultimi tempi più o meno non sfigura. E che dire, si è fatto anche spellere, molto probabilmente salterà il derby. Vabbè, insomma, in tutto questo il vero derby l'ha vinto la Roma. Totti, derby day, 2 gol alla Lazio, dedica Ilari che era in tribuna. E la Gazzetta infatti titola divisa così in due: Ibra, Mandai e Totti, derby day. Concludo allora. Ah, ecco, infatti pare che Ibra invece no, la notizia ce l'ha la Gazzetta: Ibra giocherà il derby. Questo sì, Peter mi guarda stupito, ma Gene Gnocchi lo dice in prima pagina, il rompipallone. Nessun problema, ha detto Berlusconi, Ibra giocherà il derby. Domani porto in Parlamento la riforma della giustizia sportiva. Il giornale radio.